C'era una volta. No, no, no, mi sono confuso. In diretta dal Bosco Incantato, poi ora in onda Opencast Alfa. Siamo arrivati anche questa sera con la nostra musichetta, musichetta ganzissima questa sera. Sì, mi sentivo un po' in un film anni 80. Estremamente anni 80. L'abbiamo fatto apposta. Per sentirci in un film anni 80. Esatto, io ho le spallotte, non te ne sei accorto? No. Comunque, siamo qui, Opencast Alpha, siamo noi, siamo in versione estremamente ridotta stasera. Pensavo fossero tu di spalle. No, sono spallotte. Non si direbbe. Comunque, versione veramente ridotta, meglio diciamo. Sì, abbiamo stasera in studio soltanto Paperino e Chip e Chop. Esatto. Cioè, come Chip e Chop? Tu non sei Chip e Chop. Come fai a essere Paperino, Chip e Chop? E che cacchio. Sai che io e la matematica siamo proprio completamente due cose diverse. Sì, di brutto però. Bruttissimo. Comunque, non mi sembri tanto a posto stasera, Non è che mi attacchi qualcosa. Diciamo che ho avuto dei piccoli problemi che adesso non sto qua a raccontare. Eva Q? No, Eva su. Oh mamma mia. Comunque, Siamo qui, siamo i superstiti. Senti. No, questa è la Clara che tossisce. Ah no, sei te. Sono io. Ti sei accorto che non c'è il cane oggi? La Clara. Ma strano perché. Io la sento sempre un po' come se russasse dalle nostre parti. Come sai fai a sentirla russare? Ma io sento così. Tu senti russare? Sento russare. È una presenza. Sento i cani russare. È strana come cosa, perché non ci sono. Vabbè, pazzesco. Comunque, siamo qui a far che? Dopo siamo tutto qui a questo tempo. Siamo qui a registrare la puntata numero 23 di Opencast Alpha, il podcast 23. Di 23. Il podcast di tecnologia open source e quant'altro del gruppo Linux di Como. Open me lo anche tu. Tutte le notizie su www.gl-como.it. E probabilmente tra poco anche su altri dispositivi che non stiamo qui ad elencare perché sarebbero troppissimi. Comunque, dove siamo arrivati? Ma siamo arrivati niente come ancora, cioè, abbiamo fatto cagare però, abbiamo fatto cagare. Ma abbiamo già iniziato con il momento topico. Tu se non c'è in mezzo un topo non sei contento. Come dire? Dai, cos'è successo questa settimana? Allora, questa settimana ne sono successe di cotte e di crude. Che cosa è successo? Allora, la cosa più stupefacente in assoluto, la più quella che quando ho visto la notizia sono rimasto a bocca aperta, è stato rilasciato. Finalmente l'hanno rilasciato. Oh, io mi stavo già preoccupando, avevo iniziato già lo sciopero della fame. No, l'hanno rilasciato. GIMP oh cacchio, 2.8. Come 2.8? 2.8, quello che era stato... Cioè, Firefox siamo al 42. No, Firefox hanno cominciato a seguire i numeri di Chrome, vabbè. 2.8, quello che era previsto per l'uscita a fine 2011. Inizialmente inizio 2011, poi slittato a fine 2011. Adesso è maggio 2012, ma è stato rilasciato. Allora, 30 giorni a novembre. Aprile, giugno, settembre, di dottore ce n'è uno. Sono in ritardissimo. Sono in ritardo, sì. In ritardissimo. Però è stato rilasciato e si porta dietro delle simpatiche novità, principalmente dal punto di vista dell'interfaccia grafica. Perché faceva, cioè, era bella quella che c'era. Allora, la prima cosa che hanno messo, che molti hanno richiesto, è l'interfaccia finestra singola, opzionale. Ma è proprio brutta. Opzionale. Non riesco a vederla. Opzionale. A me piaceva con tutte le finestre. Puoi tenerla con tutte le finestre. Le mettevo, perché tanto non le sapevo usare, le mettevo appunto un po' di qua, un po' di tu là. Tu solo per, come quelli che hanno la libreria con i libri finti, perché tanto non sa leggere, ma perché devono... non la vedi? È lì. Come la tua. Esatto. Per fare arredamento. Arredamento. Prende polvere. La seconda invece sono le finestre che si agganciano a pannelli verticali per tenerle assieme. A modi Mac. A modi Mac. Sì. Ci ho giocato l'altro giorno. Non lo so, brutto, però è comodo. È comodo, ma è si comodo. Attaccano. Poi vabbè, dei piccoli dettagli, grafici. È vero, ma che bello. Tipo che bello. La funzione di salva, adesso salva direttamente nel formato di GIMP XCF, mentre hanno aggiunto la voce export per salvare negli altri formati. Che era una cosa tecnologica proprio. Per rendere più chiaro la differenza fra uno e l'altro. Soprattutto perché così ci risparmiano una finestra di avviso quando salvi. Ah, è vero. Torna comodo. E poi soprattutto i gruppi di livelli. Che finalmente questo... è possibile raggruppare livelli in gruppi. Che sinceramente torna comodo. Poi hanno aggiunto per esempio la scrittura del testo direttamente sul foglio di disegno, mentre prima c'era una finestra a parte. Sì, che era proprio una cavolata. Adesso ci si può scrivere direttamente sopra e mettere tutti i vari, come dire, compro una vocale Z. Tutti i vari colori e dimensioni del testo, esatto, direttamente su lì. Poi, vabbè, altri dettagli molto interessanti, cioè la cosa che serve a me, dai. Cioè. Tipo, hanno aggiunto la possibilità di mettere semplici operazioni matematiche dentro dove si inseriscono i valori numerici. Tipo 12 fratto 3. Per dire, sì. Che questa è una cosa che hanno, secondo me, copiato da Blender. Perché Blender lo fa da tempo. Ma perché non hanno, cioè quelli che usano Blender di solito non hanno una calcolatrice. No, perché è più veloce, scusa. Più veloce, 12. E poi attenzione, qui dice che accetta semplici operazioni matematiche nei campi delle dimensioni dell'immagine, per cui altezza e larghezza. Mentre in Blender qualsiasi campo tu puoi inferire un nome 12 fratto 3. Esatto. Poi vabbè, quello che invece tu hai bisogno, lo sai di quello, cioè quello la, di cui io ho bisogno, la quadricromia, la stampa me lo inquadricromia. La quadricromia è prevista per la prossima versione, la 15, la 2, la 3 si suppone a sto punto, perché facendo queste cose pari e dispari, pari e dispari, è vero. La 3, anche perché nella 3 verrà passato tutto il reparto grafico, passerà direttamente a usare le librerie che già adesso lo stanno facendo, le librerie Jeggi. Jeggi. Ma perché questi cacchi? Librerie Jeggi. E che cacchio, non so, GEGL, che non so, sarà Gimp Extreme Graphic Library. Extreme Makeover Home Edition. Esatto. No, questo è Extreme Makeover Gimp Edition. Gimp Edition. Esatto. E per cui dovrei aspettare ancora un pochino. Quindi aspetto a però stampare. Però per chi, esatto, delle cose, per chi non ha bisogno di stampare in quadricromia e gli no, basta okay, un semplice RGB per fare web, per fare grafica semplice. Oh, questi usi monotoni per fare texture, strumenti fenomenali che possono accettare anche formule. Comunque ragazzi, Gimp 2.8, cioè sono anni che lo stiamo aspettando. È dal 2011. No, anche da prima, sinceramente. Nel 2011 c'è stata una botta di vite e ci hanno detto: ragazzi, ma sta per uscire, non vi preoccupate. Sta per uscire, ma l'icona è la stessa. E l'icona è la stessa, sì. Mi piaceva il topolino. È rimasto lì. Il toporagno. Il toporagno è rimasto lì. E questa, secondo me, è una notizia molto importante. No, ma fai bene. Nell'ambito perché... delle notizie molto importanti, finalmente... quelli di Fedora hanno deciso. Finalmente. C'è stato un po' di una discussione se farlo o non farlo. Smettono di lavorarci. No. E che cazzo. Hanno deciso che anche la versione 18 avrà il suo nome di release. Oh mamma mia. Perché c'è qualcuno che diceva: noi perdiamo troppo tempo per scegliere il nome. E gli altri: no, non è vero, non perdiamo troppo tempo. Allora sono stati... Ma Elena cosa diceva? Non lo so. Hanno perso quei 2 o 3 mesi per decidere se dargli o no il nome. Quando hanno deciso di dargli il nome, hanno perso quei 2 o 3 mesi per decidere che nome dargli. No, non sto scherzando sui 2 o 3 mesi, però più o meno, secondo me. Comunque... No, però hanno votato. Certo, cioè, hanno fatto tipo... hanno preso 429 voti, no, di più direi. Comunque, il nome che è stato scelto è Spherical Cow. Una mucca. Una mucca sferica. Ma una mucca non è sferica. È sferica. Non è questa sferica. È sferica. Non è animale. Beh, ascolta, il secondo nome in graduatoria era Halva. Boh, io non è che dico. Non lo so. Però. Vabbè. Quasi Chamonix era quasi meglio, Se no c'era anche Pamukkake, che però secondo me non è stato scelto perché ha un'assonanza con... Vabbè. Poi c'è... Allora... Tandoori Chicken. Questo secondo me era un nome che meritava. Anche perché il nome precedente aveva a che fare con... quegli hot dog. Adesso non mi ricordo chicken. Il nome esatto, purtroppo... Chicken ci stava dentro. Come al solito noi siamo sempre molto precisi e puntuali con le pezzo. Perché... Allora, vabbè. Pop soda. O anche Ketchy Ketchup. Ketchup. No, pop soda, però... Facciamo una cosa, li freghiamo. Produciamo una soda e la chiamiamo pop soda. No, io ho un'idea migliore. Che facciamo una derivata di Fedora e la chiamiamo pop soda. Tanto, cioè, abbiamo più o meno 821 persone che ci potrebbero seguire. Grosso modo, sì. Mizzeca. No, comunque, veramente, adesso che so questa cosa, riuscirò a dormire tranquillamente, perché veramente io mi chiedevo, ma Fedora su DistroWatch? E quello lo vediamo dopo. Dopo? Dopo, quando ci sarà l'angolo di DistroWatch, anche se non è ma tenuto. Ma abbiamo un angolo. Siamo qua in un igloo. È un po' tutto rotondo come la mucca. E l'igloo. Però la mucca che è rotonda è qua tutto. Ancora questa storia. Io non l'ho mai vista. È sferica. Questa è sferica, neanche rotonda. Ma sferica. Ma non l'ho mai vista io. Perché tu... Tronco di cono una no, volta, è perché, no, è perché tu guardi solo le mucche svizzere. Esatto. Che sono tutte così a tronco di cono. Tronco di cono. Esatto. Tipiche mucche. Invece le mucche americane, soprattutto quelle che sono... Esatto. Sono tutte sferiche. Tutte. Sì, perché rotolano meglio. Rotolano meglio. E prova tu a far rotolare quella tronco di cono. Tutto via da una parte, via storta, poi. Non è un facile. Un po' di qua, un po' di là. Non è facile. Comunque, parliamo di cose serie. Non, okay? Non è facile. Non è facile. Complimenti a tutti. I pianisti. Pensavo... A tutte le mucche. Le mucche. O gli sferizzatori. Certo, anche. Come no. Comunque, parliamo di cose serie. Certo. No, parliamo di cose serie. Avremo l'angolo di DistroWatch probabilmente verso la fine della nostra... Siamo tutti rotondi. Va bene, avremo la curva di DistroWatch, cosa ti devo dire. Finalmente. Verso la fine della puntata. Non si sa ancora bene chi la terrà. Infatti adesso stiamo cercando se arriva al vicino. Io perché, esatto. Perché purtroppo... Io devo fare comunque un annuncio. cioè, devi usare così per scopi privati, sì, personali. Perché comunque me lo sento dentro e devo... Va bene, allora fermi tutti, signora, lei che sta caricando i sacchi della spesa sull'autobus. Si fermi. Che si sta facendo largo tra questi ancora, giovinastri con lo zaino. Che ancora sta pensando alla mucca sferica, esatto, e a Fedora. Si fermi, faccia fermare anche l'autista un attimo, dobbiamo fare un annuncio. Se potete scendete tutti perché abbiamo bisogno di voi. Stiamo per organizzare un mapping party. Noi ce lo mappiamo, voi ve lo mappate e si se lo mappano. Sì, poi facciamo chi l'ha mappato più lungo. Allora, no, no. Allora, non degeneriamo, eh. Tu l'hai detto. Questa mappatura sta degenerando una schifezza, per piacere. Allora, c'è questa necessità. Il gruppo Linux Como sta per organizzare il mapping party del centro di Como. Dobbiamo approfittarne per... trovare dei nuovi posti dove andare a mangiare. No, no, no, no, no, non è questo, no, non è questa, no, la non cosa. È no, no, no, no, non è questa. Mi sembrava. Allora, noi dobbiamo fare una cosa. C'è OpenStreetMap che ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di lui. Perché? Perché ci dà delle mappe da utilizzare in modo gratuito. Noi è dobbiamo libero. Utilizzarle, è libero. Noi dobbiamo utilizzarle e contribuire a realizzarle. E quindi? E quindi io vi annuncio solo una cosa. Tenetevi pronti perché a giugno ci sarà... Adesso non diciamo il giorno perché il 12 fratto 3, dai. Ok, ok, va bene. Beh, meno male perché 12 fratto 3 non è verso la fine del mese. Infatti, no, perché fine del mese non ci sei. No, va bene, vai avanti. E che cacchio. Comunque, dobbiamo organizzare questo mapping party. Cos'è un mapping party? Mapping party è un... mapping party? Potremmo farci una canzoncina. Adesso vediamo se riusciamo a farcela. Non è altro che un gruppo di sdebosciati che vanno in giro per la città a recuperare i dati GPS, quindi con dei logger GPS e con poi degli apparati atti a ricevere i segnali del GPS dei satelliti geostazionari geostazionari no, vabbè, comunque registrarli e poi inserirli sul sito di OpenStreetMap e disegnare la cartina della città. Cosa sta succedendo? Visto che OpenStreetMap ha cambiato recentemente, più o meno, i termini di licenza dei dati, e visto che chi ha inserito il centro di Como purtroppo non è più raggiungibile, magari ci sta ascoltando. Se ci sta ascoltando... Se ci ascolti, abbiamo bisogno di te. Reperisciti. Fatti trovare. Ci dovrebbe essere un modo per contattarci sul sito www.gl-como.it. Lasciaci un commento, scrivici una mail. Qualunque cosa, perché, una corona di fiori. Perché fai te. Fra poco i dati del centro di Como verranno cancellati. Verranno cancellati, per cui i casi sono due. O tu che li hai disegnati ci stai ascoltando e accetti la nuova licenza. Oppure noi del gruppo Linux di Como organizziamo questo mapping party per poter ricreare da zero dei dati liberi da reinserire in OpenStreetMap sotto la nuova licenza. Questa è la scusa ufficiale. Esatto. Invece il vero motivo è che abbiamo deciso di farci una giornata al cazzeggio in giro per il centro di Como e poi trovarci a mangiare. Esatto, l'idea è quella di cercare tutte le gelaterie, paninerie, paninoteche, qualunque cosa che atto a cibarci. Esatto, poi segnare tutto. Segnarle tutte perché sono importanti. Prezzi, dimensioni dei panini, quantità dell'imbottitura. Diciamo che possiamo mettere le forchette del GL Como. Questo mi piace. Che è una cosa, un tag sensatissimo, direi. Dopodiché, ovviamente ci sarà organizzato molto probabilmente un sabato pomeriggio e probabilmente ci sarà una bella cenetta, per cui... Tenete d'occhio il sito perché lì ci saranno tutti i dettagli, tutte le cose e in più prima o poi se sarete in giro per Como ci troverete in giro a fare i pazzi. Non ci sparate perché non siamo pericolosi. Saremo in giro a distribuire volantini per spiegare cosa stiamo facendo e a chiedere una mano ai passanti. Unitevi a noi e imparate come a far diventare sempre più utile e completo OpenStreetMap. Tanoni wam. Bravo, hai fatto un bel annuncio, bello lungo, mi è piaciuto, bravo, hai misurato bene. Io direi a questo punto che possiamo fare lo stacco musicale. Funkitarlo. Perché sono stanco. Funkamelo. Facciamo un bel pezzo funky. Funky, funky. Ok, questi sono La Mundial, un gruppo di Barcellona. Che mi sembra giusto. Col pezzo Funkitude. We'll be right back. Opencast Alpha. Alfissima. Il podcast ad alto contenuto di congestione. Sì, poca tecnologia perché siamo qui messi più o meno no, in una condizione. Insomma, no, allora, diciamo le cose come stanno. Tu volevi già tagliare tutto, volevi tagliare tutto il mio discorso su OpenStreetMap, ma io ti denuncerò. No, io volevo tagliare te. Cioè proprio fisicamente. Non ti porterò più a mangiare la pizza. Ho deciso. Va bene. Beh, comunque volevamo ringraziare, già che ci siamo, tutti quelli che si sono fermati alla Fiera dell'Elettronica di Erba, dove siamo stati. Ciao, Fiera dell'Elettronica di Erba. È una nostra amica. L'amica Fiera si chiama. Sì. Piera e Fiera. Fiera. E è stata abbastanza gentile come amica. E ci siamo divertiti. Sì, sì. Ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto un po' di persone, ci siamo fatti vedere. Speriamo nelle prossime puntate. Yeah. Va bene, vuoi introdurre tu un discorso o Beh, andiamo avanti sì. così? Potremmo parlare di HTML5? Parliamo di HTML5. Qual è la grossa news in fatto di HTML5? Dentro Firefox. Firefox. Firefox ha inserito il supporto a GStreamer direttamente dentro il browser. Esatto, questo vuol dire che GStreamer può essere usato, adesso non è ancora attivo, può essere usato come... Uscirà in Firefox 42 probabilmente. No, è già dentro ma non basta, bisogna abilitarlo. Bisogna non so se è uno switch abilitamelo. Di compilazione o qualcosa di genere. Userà GStreamer come player multimediale, per cui... Niente più plugin. Esatto, no. Niente più codec che viene portato assieme al browser. Adesso Firefox supporta soltanto Ogde, Ora e quelli liberi. WebM, quelli liberi, perché se li porta dietro, ce li ha dentro lui. Mentre adesso, prossimamente, con GStreamer... Dalla 42, certo. Ho studiato. Bravo. Verrà usato appunto GStreamer e tutti i codec di GStreamer che sono stati nel sistema potranno essere usati per fare leggere a Firefox i video. Questo vuol dire che se uno ha installato GStreamer con i codec dell'MP4 sarà possibile vedere anche i video in MP4 direttamente nel browser. Quindi sarebbe, cioè, siti... dovrebbe essere più veloce, dovrebbe essere un pelino... Secondo me può essere anche più performante, sì, bisogna vedere sì. cosa fanno loro nel mezzo. Nel mezzo del cammino della nostra esatto. vita mi ritrovai un Firefox oscuro. Perché ti ricordo comunque che Firefox dà a disposizione del browser il contenuto dei fotogrammi, in cui è possibile da JavaScript catturare il contenuto del fotogramma. E poi soprattutto fa anche un, diciamo, un compositing sulla pagina, dove perché è possibile inserire il video e dargli le proprietà col CSS, per cui farlo ruotare piuttosto che mettergli sopra un effetto di blur, di bianco e nero, tutto da CSS e SVG, per cui qualcosina di mezzo c'è. Sapevatelo su Opencast Alpha! Che grandi notizie! Cribio! E comunque se poi... dovesse proprio capitarvi che gira troppo bene o robe del genere, installate comunque Gnash, perché vi dà quei seri problemi su Flash, per cui ogni tanto è utile. Ma una volta che... No, vabbè, ma ti abitui alle pagine... No, vabbè, perché ti abitui alle pagine senza Flash. Ah, perché... Perché non su tutte funziona, diciamo, no? Vabbè, ma... Ma no, ma è la cosa caratteristica. Non funziona su tutte Gnash, supporta soltanto il Flash... Vecchi. Fino all'8, no, sì, fino all'8, cioè con ActionScript 2. Cioè, no? C'è quell'altro che si chiama... Fufi Gnash. No, c'è un altro progetto. Gnash. Non mi ricordo come si chiama, non c'entra Gnash. Piu, pianta! Non capisco perché devono dare questi nomi strani ai progetti. Adesso mi sfugge il nome. Sfugge il nome Gnash. Che è un player Flash che implementa ActionScript 3, però è ancora abbastanza indietro. E a cozza comunque. Però promette bene. Io mi sono abituato alle pagine politico. Senza Flash. E anch'io abbastanza. Vabbè. Mi innervosisce quando c'è Flash. Di solito è questo quello che noi diciamo quando c'è Flash. Poi... Per cui, visto che ci stiamo liberando di Flash, e per cui ci perderemo anche con Gnash, non funziona con Gnash. Tutti quei bei giochini che ci sono sulle pagine. Maledizione, diventa complicato. La notizia poi. Buona è che Valve... Valve, la software house che è dietro alcuni dei giochi più belli del mondo, no, vabbè, possiamo insomma, dirlo. No, senza dei videogiochi. Dei videogiochi, dimmene uno. Portal. Ma perché io sono handicappato proprio nel giocare, cioè, sono fisicamente meno matto nel giocare, non riesco. Comunque i miei neuroni non sono collegati al braccio. La Valve ha fatto sapere non che non è colpa mia, è interessata a portare, ma è vero, Steam e Source Engine su Linux. Questo cosa vuol dire? Che i giochi della Valve potranno girare anche su Linux. E per cui anche il loro, diciamo, il loro store, il loro game store, possiamo chiamarlo game store, Valve Store. Valve Store, cioè, scusa, una roba per idraulici. Vado a comprarmi due o tre valvole. No, non è colpa mia se si chiamano valvola, eh. Vabbè. Certo, ma che cacchio gli ha dato il nome? Non lo so. Comunque, finalmente potremo fare Gianni anche Valvola era il nostro clicca paga scarica il videogioco. Clicca paga. Che se io invece. Beh, ci sono anche quelli gratuiti. Ah, ok. No, che però dicendo, probabilmente non funzioneranno. Che però, vabbè. Cacchio. Comunque, signori giocatori, probabilmente stiamo entrando sempre più nella fase in cui si accorgono che ci siamo. Ci siamo. Noi di Linux? Ci siamo. Certo, alcuni non sanno giocare. Alcuni non possono perché Io non ho proprio i collegamenti, non ho neuroni al braccio. Alcuni non possono perché la scheda grafica magari. Allora, vi ricordo che noi stiamo registrando grazie a un mio PC che, vabbè, ha una scheda grafica oscena. No, ma io parlavo quello del mio trattore. Ah no, ma non te lo ricordi quando abbiamo giocato con questa? Ah, sì. A un Real Tournament. Sì. 3 frame al secondo. Ma perché così hai tempo di valutare bene capito? Le cose. Crivio. Un fotogramma l'altro. Mi uccidevano 6 volte. Non capisco come va. Comunque, grazie. Ah, sei morto 3 volte? No, veramente a me non mi sono accorto di niente. Non è ancora aggiornato. Sarà quello dietro. Vabbè. Comunque, grazie al mio computer che stiamo registrando. Quello è vero. È una bellissima live. Una fantastica live di Tango Studio. Tangomolo Studio GPS. No, non c'è il GPS. Senza GPS. Vabbè. E senza GPS. Lo faremo la prossima volta. La prossima volta. Dai, un'altra cosa, dai. Che noi siamo pronti, siamo qui sul esatto. pezzo. Un'altra buona notizia per noi linuxiani. Finalmente. È stato rilasciato XFCE 4.10. Uomini che non riuscite a stare senza le vostre finestre. Dopo più di un anno di lavoro. È stato faticoso. È stato rilasciato questa versione che sarà l'ultima che supporta le GTK 2. Ma perché avevano problemi col nome? No, questi è XFCE 4.10. È quello che non riuscivano, allora? Non riuscivano a decidersi se mettere il punto, la virgola, il due punti. Certo, va bene. Decidi no. Certo, va bene. Comunque, ci sono un tot di novità per chi di voi usa XFCE. Chi? Io no. Però qualcuno ci sarà. Sì. È una buona notizia. È una quando esce una nuova versione di un software utilizzato, secondo me è sempre una buona notizia. Sì. Da quel anche punto quando di esce vista, una sì. nuova versione di un software che non è utilizzato, è una buona notizia. È una buona, come Fedora. Come, ma no, dai. No, non l'ho detto io. No? Smettila, ce n'è uno che passa di qua ogni tuo tanto. Il fratello è stato. E il cane. Il cane. Ma russa? Il cane ogni tanto russa. Russa. Aspetta. No, non russa. E allora cosa dici? A volte russa. A volte. Non è che sarà, vabbè, un cane russo. Vabbè, comunque questo XFCE. I cani russi, sono pericolosi. XFCE 4, ma io pensavo di mettere Fluxbox. Cane russa quando parli di Fluxbox. Grazie. È russa di brutto anche. Ma di brutto brutto. Di brutto brutto brutto proprio. Basta, che ci sentono. Io l'ho detto. Bravo. Meno male. Comunque dai, novità. Vabbè, GTK2, dai. Ultima versione con GTK2, per cui dalla prossima versione GTK3. GTK3, finalmente questo passaggio al GTK3, così siamo tutti felici. Esatto, poi ci sono delle grandi grandissime novità. Grandissime hanno novità. Cambiato il logo. No. Ma che cacchio? Ma io mi chiedo, ma perché che non fissato? Cioè, io metterei una mucca sferica. Non so, adesso stavo pensando alle mucche sferiche. Così. C'è fissa del mucche sferiche adesso. Secondo me te le sogni anche stanotte. Un bel biliardo. Ma di come mucche farò sferiche. Io stanotte? Cioè, tu immaginati questo pascolo. Questo pascolo verde. Verde esatto, con le buche. Aspetta, con o con birilli. Con l'erba tagliata rasa. Come non puoi dire di no? Guarda, prato inglese. Esatto, con delle buche. Con delle buche. Ma buche o birilli? No, buche. Buche. Buche. E queste mucche sferiche che... e questi contadini con i bastoni, i vaccari con i bastoni. Bastone da vaccaro che dicono mucca viola in buca d'angolo. No, ho bevuto la mucca bianca. È una cosa preoccupante, va bene. Comunque possiamo fare tutta la puntata sulle mucche sferiche. Perché? No, è vero, possiamo farla. Mi stavo già preoccupando, veramente. No, va bene, no. Vai pure. Allora, facciamo una cosa. Domani proveremo questo XFC 4.10. Se voi l'avete già provato, fateci sapere. Mandateci dei suggerimenti, dei link. Tanto non sappiamo leggere. Quindi esatto, immagino tanto... comunque noi metteremo il link sulla pagina con sì. Il collegamento tutti, quindi se ci mandate delle cose noi le mandiamo. Se poi sono delle pagine porno le mettiamo anche evidenziate. Si possono evidenziare, certo, le cose sul www, soprattutto il porno. Va bene. A questo punto direi che siamo arrivati a quell'ora. A quell'ora della curva. La curva sferica della mucca. No. Diciamo che siamo arrivati alla parte bassa della mucca. La parte bassa della mucca. Sì. E distrovoce. Si chiama così? Sì. Va bene. Per cui l'angolo di distrovoce, visto che la voce ufficiale non si è presentata. Esatto. No, diciamo che ho deciso che lo sostituisci. Che cacchio. Così. Vabbè, allora parlerò di quello che voglio io. Di sì, distrovoce. Certo. Cioè dentro distrovoce. Attenzione perché il cane è russa. No, cacchio. Attenzione. E soprattutto non è facile. Veramente. Va bene. Angolo di distrovoce. Allora. Siamo pronti? Siamo nati pronti? Certo. Allora, prima cosa, voi uomini che di solito fate le bang, è così che si dice, questo è un tecnicismo, che io sono un tecnico, voi che volete provare delle distribuzioni che hanno la parola bang nel nome, ne abbiamo ben due questa sera, Arc Bang e ce la faremo, eh? E questa la devi leggere te però, perché diventa complicato, eh? Crunch Bang. Io mi rifiuto di dire queste cose, queste parolacce così in giro. Sì, è una pratica. È quello che mi preoccupa. Basata sui cereali. Nel latte. Comunque, vabbè. Sono due bellissime distribuzioni basate su Arc e su Vatte la Pesca. Debian. Oh mio Dio, poverini. In cui c'è un bellissimissimo desktop environment. Scusa, open box, scusa. E Debian no. E Fedora no. No, mi dico, perché Debian? Perché devono rovinare Debian? È così bella di suo. Ma hai mai provato open box? Proverò. E allora? No, open box sì. Ma vabbè, ma vai avanti. Comunque, vabbè, facciamo questo angolo. Non è un angolo, è un... Vai avanti. È una porzione di sfera. Allora, distrarre. Comunque, una cosa che dobbiamo dire assolutamente, anche questa settimana mindatelo è sopra Ubuntu, però Ubuntu è sopra Fedora, anche se Fedora è uscito con la versione 18. Non è ancora uscito. Uscirà, allora sono tutti intrepidanti per quello che aspettano a scaricarla. Però Fedora è sopra OpenSUSE. Sì, che fortuna. E Debian è lì, in quinta posizione fissa. Arc ci sta provando perché arriva dal dietro. Diciamo così. C'è Puppi. Sì, no, ma attenzione perché Arc è seguita da Mageia. Maia. Mageia un po' mi preoccupa. Mageia. 100S ancora. Ma sì, devi scendere ora di trovare quello che stai cercando. No, è lì. Devi scendere al diciottesimo posto, ma perché noi lo facciamo apposta per festeggiare Fedora. Cioè, scusa, non è per dire, ma c'è anche Puppi Linux sopra la Gentoo. Però Pingai è sotto. Strano. Mandriva è sotto. Mandriva ormai non esiste più. No, in realtà esiste ancora. Però Mandriva. Penso che non. Sì, hanno fatto una riunione di tutti quelli che ci mettono i soldi. Si sono messi lì e hanno detto: e ragazzi, hanno detto, ci mettiamo dentro ancora dei soldi. E gli sviluppatori hanno detto: sì, ma noi siamo già da un'altra parte. Non so che fine faranno. Non questi so soldi o gli sviluppatori? No, i soldi. Perché mi hanno detto che li stanno bruciando vivi. No, gli sviluppatori sono tutti da Mageia, tranne un paio di russi. Che sono ormai bruciati. No, comunque. No, che stanno, guarda. Hanno rilasciato la Rosa. Rosa, guarda. Quando io ho letto. Che poi la cosa strana è che Rosa è una distribuzione bellissima. Peccato che ha un logo che è blu. Ma l'hai mai vista? No, ma non se ne sono accorti. Hanno fatto un logo blu. E le rose sono blu anche. Non mi pare che. Me lo dici te? Te dico io. Va bene, allora le rose sono blu e questa qui è una bellissima distribuzione derivata da un fork di Mandriva. Perché, cioè, veramente, che cosa fai di solito te quando non riesci? Hai problemi intestinali? Forcati anche te, Mandriva. È la cosa più bella del mondo. Vabbè, cosa dire. Con questo Gentoo però, cioè adesso sta aspettando, però adesso sale. Allora, che poi sembra quasi che veramente la gente non ci ascolta, Dici che allora, ok, non ci ascoltano, va bene, vabbè, ma perché è Mandriva che fa questo effetto comunque? Vabbè, allora, finito l'interfaccia sferica di DistroWatch? No, ne voglio dire solo una ancora, dai, perché mi sembra giusto, va nominata. Allora, parliamo di cose veramente serie. Finalmente è arrivato Mint. L'arrotino. È arrivato l'arrotino, Arcbang, vabbè, comunque... Che cosa? Che Mint in testa? Sì, io sono felicissimo di questa cosa, anche sì. Se tutti dicono, ma però c'ha... ha delle licenze un po' farlocche, parlano un po' del fatto che di default sulla live ci sia Flash. Vabbè, facciamo finta di niente noi non la usiamo, però è bella. Ti piace? Mi piace. La versione Debian based. Fisicamente? Sì, la versione Debian based non è male. Bene, sono contento per te. Mi incrippa, mi stuzzica, mi insferisce, diciamo. Credo che a questo punto sarà meglio chiudere l'angolo, È un circolo di sfera. Basta così. Perché mi sta già con quella basettina che avevi sotto, con la musichetta. Tu che cominciavi a parlare del sfericamento, era meglio chiuderla qua, sennò ci mettono in fascia protetta. Allora, io non vengo più, ve lo dico, io non vengo più. È casa tua. Comunque, tanto la prossima volta spero di avere la voce ufficiale di DistroWatch. Che... non lo so, perché no, stavo pensando, essendo io re imperatore, di... certo. Di pormi come... Chi è che sono questi? No, questi non li puoi mettere. Abbiamo fatto i nostri 40 minuti. Già mi sento veramente provato. Io ho dei problemi. Ma ce li avevi anche l'altra volta? No, l'altra volta non era così. Beh, no, problemi ce li ho sempre. Ah, ecco, vedi, okay. Che me lo ricordavo. No, sì, problemi ce li ho sempre, c'hai ragione anche tu. Però stasera c'ho dei problemi, diciamo, di... come dire... di approvvigionamento d'ossigeno. Che mi rendono la cosa piuttosto difficile. Per cui direi di chiudere qui, tanto siamo comunque nei tempi. Sì. Vi ricordo che sul sito www.gl-como.it trovate tutte le puntate di Opencast con i link alle notizie e alla musica che abbiamo passato. Tutta la musica che passiamo la trovate quasi tutta su Jamendo, diciamo il 99%. Perché il resto? Qualcun'altra arriva da altri siti. Comunque è tutta musica in Creative Commons. Stavo già preoccupando, no, io. Tutta musica in Creative Commons, cioè, per carità. Tiziano Ferro non l'abbiamo passato. No, al massimo lo ripasso. Vabbè, il ferro sull'affettatrice. La mia affettatrice. Avanti e indietro. Vabbè, comunque. E vi ricordo anche che potete lasciarci un commento, che potete scrivere direttamente dal sito del GL Como per lasciarci. Potremmo dare anche consigli, un post box, insulti, lettere di amore, cose del genere. Lettere di amamelo. Soldi. Lasciarci dei soldi. Vi diamo un IBAN, non vi preoccupate. 12/3. Esatto. Inseritelo in Blender. Direi che a questo punto che concluderei con l'ultimo pezzo. Il pezzo più ganzo della serata. Lascia fare, che è il pezzo dell'estate dell'anno scorso. Dimmi solo come si intitola, perché il pezzo si intitola The Rabbit Song, che vuol dire la canzone della mucca sferica. Ci sei quasi, secondo me puoi anche passare il coso d'inglese, l'esame d'inglese. Bravo. Ne so The Rabbit Song. Oh, avete ascoltato Open Cast Alpha, il podcast tecnologico di Vittegnato del GR Provo. Tutti i link e le puntate su www.gr-provo.it. Facciamo un bel pezzo funky. Funky, funky. Ok, questi sono La Mundial, un gruppo di Barcellona. Che mi sembra giusto. Col pezzo Funky Dude. Ovviamente tutto da Jean Mendo. No, non tutti assieme così adesso. Non si sente. Come non si sente? E non si sente. Ma siamo qui noi. E non si sente. Ma siamo qui e lui non si sente. Adesso riprova, aspetta. Prova. Uno, due, tre. Allora, come se lo facessi da nuovo. Da nuovo, eh? Da nuovo. Questi sono i La Mundial, un gruppo di Barcellona. Ma veramente? Sì. Sembrano quelli di prima. Pazzesco, eh? Col brano Funky Tude.